Grazie. Grazie. C'ho la gola secca, eh. Hai la gola secca? C'è qualcuno che ha così ha voglia di portare da bere a Mauro perché ha la gola secca, ha la gola secca. Se non beve non suona. E se c'è qualche volontario che gli vuol portare una, non so, un po' d'acqua minerale. Va bene? Allora la birra, vuoi una birra? Vuoi una birra? Se c'è un volontario o una volontaria che gli porta una birra, poi gliela paghiamo noi. Va bene? Ok. Allora prima facciamo How I Star, poi la birra. Guarda che quella roba lì l'ha avuto solo per lavarsi e lo fa molto poco spesso. Va bene, se va bene, beh, altrimenti... Grazie Simona.